these images mean. Locked inside me, can't set the rainbows free. Like perishing flowers, they sag and twist and die. There's a revolution. Aloha, buongiorno e ben ritrovati. Questo è l'Early Bird Special, la primissima colazione servita tutte le mattine dalle 6 alle 7 da Rock FM. Io sono Chuck Bird, quello del caffè nero bollente, quello delle storie sul rock and roll. Oggi ne ho una veramente spassosa su Janis Joplin, ma non corriamo, perché in questo momento arrivano in Chicago Beginnings. I'm with you. It doesn't matter where we are or what we're doing. I'm with you, that's all that matters. Time passes much too quickly when we're together laughing. I wish I could sing it to you. I wish I could sing it to you. Oh. Beginnings vuol dire l'inizio, l'inizio delle trasmissioni qui a Rock FM, perlomeno in diretta, è compito mio. Sono Chuck Bird, insieme a me c'è la dolcissima, amabilissima, disponibilissima Cherie. Disponibilissima perché è sempre pronta con la sua bella tazza di caffè nero bollente da servire al vecchio Chucky Boy. Per te una bella canzone di Eric Clapton. Scusa Cherie, so che Eric Clapton non è tra i tuoi cantanti preferiti, no? Dovete sapere che lei non ha mai amato Eric Clapton, soprattutto da quando lui ha inciso quella canzone. Sì, come era intitolata? I Shot the Cherie. Thank you.

Early Bird Special. La ricetta per questa colazione è semplice ma efficace. Storia di rock and roll, cose grandi e piccoli episodi, come quella volta che Janis Joplin voleva farsi il bassista 17enne di Jerry Lee Lewis. Ma prima, per voi ci sono i Depeche Mode. Depeche Mode, Blasphemous Rumors. From the mother's eye. La storia del rock and roll è fatta di grandi eventi, di canzoni memorabili incise nei migliori studi di registrazione, di concerti leggendari suonati davanti a migliaia di fan in adorazione. Ma ci sono anche piccoli, divertenti episodi che, secondo il vecchio Chucky Boy, che sarei poi io, valgono proprio la pena di essere raccontati. Piccole storie di grandi star del rock and roll. Come quella volta che Janis Joplin fece uno show a Louisville. Dopo il concerto, Janis e qualche componente della sua band andarono al Civic Center, dove suonava Jerry Lee Lewis, The Killer. Dopo il concerto, Janis e i suoi amici andarono nel backstage per complimentarsi con il vecchio Jerry Lee e la sua band. Ad un certo punto scese dal palco il bassista della band di Jerry Lee, un ragazzotto di campagna biondo, coi capelli lunghi legati a coda di cavallo. Janis esclamò, rivolgendosi a nessuno in particolare, «Mi devo fare quel figo!» E appena dopo corse dietro il giovane musicista, lo afferrò prima che salisse sul tour bus e gli domandò se avesse intenzione di salire su quel bus e scomparire nella notte alla volta di qualche altra città. E il ragazzo, un po' confuso da quell'approccio piuttosto diretto, rispose di sì. Questa era la sua intenzione e lei gli gridò «Sbagliato! Tu rimani qui per fare festa con me tutta la notte!» Lo tirò giù dal bus, lo trascinò letteralmente in camerino con lei che diceva come fosse una mamma arrabbiata «Adesso vieni di là che così scopiamo un po' per benino!» Il problema è che tutti, compreso Jerry Lee Lewis e tutti i colleghi del gruppo, stavano sentendo la piccola Janis gridare in questa maniera. Carl Pearson era letteralmente sotto shock, al punto di svenire nel corridoio. Allora lei lo guardò e gli urla tra l'incazzato e il divertito. «Allora, bel figo, non ti piace il sesso?» Tornando a casa, Janis cadde in depressione, piangendo sulla spalla del bassista della sua band. «Perché non piaccio agli uomini che mi piacciono? Perché?» si domandava sconsolata la cantante. Il bassista lo guardò divertito e le disse «Baby, finché ti presenterai con piacere di conoscerti, scopami perché sono tua, pochi uomini ti seguiranno». Eccola qui, aggressiva nella vita come davanti al microfono. Take another piece of my heart. Questa è Janis Joplin. Early Bird Special, tutte le mattine dalle 6 alle 7, Janis Joplin, anche lei, ospite qui alla mattinata di Rock FM. Se siete qui, perché siete i più furbi del mondo, perché non c'è niente di meglio che l'Early Bird Special per svegliarsi. Io sono Chuck Bird e questa è la mia tazza di caffè nero bollente. Merci, chérie. Sapete che cos'ha di buono il martedì? E non è lunedì. Ragazzi, ben ritrovati qui all'Early Bird Special. Io sono Chuck Bird e sono qui con voi tutte le mattine dalle 6 alle 7. Prima di me la non stop e dopo di me pane, burro e rock and roll. Con l'Ariele e Freak Anthony. Ma non corriamo, perché con noi ci sono quattro ragazzi che da Liverpool hanno conquistato letteralmente il mondo. The Beatles, help! I need somebody, help! Not just anybody, help! You know I need someone, help! When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. picture being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone. I'm not so self-assured. Help, I need somebody. Avete bisogno di aiuto? Beh, qui c'è il vecchio Chucky Boy che vi fornisce la migliore musica in circolazione. Rock FM, tutte le mattine apre i battenti alle 6 con l'Early Bird Special. Vostro anfitrione questa mattina, come tutte le mattine, Chuck Bird. Con noi anche Electric Light Orchestra, Turn to Stone. Love. Early Bird Special, che in pratica significa grande musica tutte le mattine dalle 6 alle 7 e qualche chiacchiera sulla storia del rock and roll, ma non la storia quella dei grandi concerti, dei grandi dischi, anche la storia delle rock and roll star nel loro quotidiano, nei loro piccoli incontri, i loro piccoli episodi, come quella volta che Ozzy Osbourne incontrò Sharon. ma prima di raccontarvela, vi invito all'ascolto di New Kid in Town. Questi sono gli Eagles all'Early Bird Special. Everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. Just another new kid in town. è stato l'evento televisivo di qualche stagione fa. La rock and roll star Ozzy Osbourne è filmata 24 ore su 24 insieme a sua moglie Sharon e ai suoi figli. Eh già, sua moglie Sharon, per molti la vera forza dietro questo personaggio che il rock and roll ha reso, diciamo, un po' bollito. Lei e Ozzy sembrano così uniti da sembrare più fratelli che marito e moglie. Volete sapere come si sono incontrati? Beh, il vecchio Chuck Bird ve lo può raccontare. Gary Moore e la sua fidanzata stavano pianificando un weekend a San Francisco insieme a Sharon, per l'appunto. Lui, Ozzy Osbourne, stava passando di lì, praticamente per caso, e lei, vedendolo, gli chiese a bruciapelo: «Ehi, signor Osbourne, vado a San Francisco, vuole venire anche lei?» Purtroppo Ozzy era così su di giri allora che non riuscì a trovare la sua stanza per confermare la sua presenza per quel weekend. E per un sacco di tempo i due si persero di vista. Un anno più tardi, nel 1980, i due si ritrovarono agli studi Shepperton a Londra. Lui quasi rovinò tutto di nuovo, continuando a chiamare Thelma, che invece era il nome della sua prima moglie. Early Bird 3000 questa mattina, i pettegolezzi più rock and roll che potete trovare nell'etere, in esclusiva su Rock FM. Crazy Train, proprio quello che ci vuole questa mattina. Ragazzi, come tutte le cose belle, anche questo Early Bird Special è giunto al termine. A me, che sono Chuck Bird, non rimane far altro che ringraziarvi per l'ascolto e lasciarvi con i restanti programmi da Rock FM, nella fattispecie Pane, Burro e Rock and Roll, con l'Ariele e Freak Anthony. Da Chucky Boy è tutto. Aloha!